Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Pino, ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Camerata, onore al duce. Beh, onore al duce, camerata, a me non me lo dici perché non sono il tuo camerata. Onore al duce, no, perché, che cazzo vuoi stasera? Non tutti gli ammiratori di Cruciani sono fascisti, ma tutti i fascisti sono ammiratori di Cruciani. Ma si può dire una cosa così? Vivi il duce! Il lavoro e la libertà, risorneremo! Sparando non fare scherzi perché ti apro le gambe come una gallina. Mamma mia. Ma non ho capito, tu sei fascista, Giovanni? Fascista. Ma perché non lo sai che io sono fascista? Sei anche coglione però, oltre che fascista ovviamente. Arenzo, io non voglio parlare con te, sporco comunista, di merda. Voglio dire che stasera sono contro di te perché una donna non dire che è bella troia. Se è la ma tua donna, ma non ho detto che bisogna dirlo detto, sempre. Ma ho capito, non è che dico una bella troia senza conoscerla, cretino di un Giovanni. Ma tu puoi dire una donna che non conosci che bel culo, che bella figa, che belle teste. Tu gli puoi dire che è bella donna, hai superato il muro della bellezza, ma non gli puoi dire direttamente che bel culo cioè, che hai. Cioè questo qua dice le peggio questo, cose, no, Parenzo deve morire, esatto, ti spezzo le gambe, viva Mussolini, però io non posso dire, capisci la follia, non posso dire una donna che ha delle belle cose. Puoi dire a mia moglie che bel culo che ha. Cioè, ma se la incontro, se nessuno glielo dice perché sarà sicuramente un cesso a pedali, ma il tema non è questo. Arezzo, vai a fare in culo, comunista di merda, non io ti non scaldare, parlo con te. Non ti scaldare, hai non ti scaldare, stronzo, non ti scaldare. Pronto, ritroviamo pronto. Un tono civile, ritroviamo bastardo un tono civile. Di merda, aspetta, tu sei un bastardo di merda. Mettiamo a tacere questo gabinetto di Foggia, ritorniamo civili, metti a tacere questo Vespasiano sporco e torniamo civili. Ma io non ti sto insultando, ho detto metti a tacere questo Vespasiano. Vespasiano. Sono una persona civile, se ti dica che civile. È con te non voglio no, parlare. No, no, no, tu no, devi ferma essere... tutto, ferma tutto. Una persona no, civile di non rispondere. Ferma tutto, ferma, rewind. Hai detto nell'ordine: uno, sono fascista, viva il duce. Due, non hai detto una marea tuoi, di parolacce e poi dici te. Che sei e civile. Tu sei un cesso sporco della stazione centrale nell'ora di punta. Questo sei, altro che civile. Capito? Ti potrei querelare, non lo farò, ma non ti preoccupare, ti avverto, perché io so come rintracciarti. Laura! Lo avete sentito all'opera, pochi istanti fa, in questa ricostruzione della giornata di ieri, in collegamento da Roma, dagli studi di Roma, David Parenzo. Buonasera, signor Parenzo, buonasera. Laura, buonasera. Sì, Laura, sono io la divina. Mamma mia, ragazzi. Laura. Se non l'avete sentito ieri, si è dedicato anche a TikTok con la figlia. Sì, una sì. Vergogna. Una cosa meravigliosa. È un uomo capace, moderni, è uno moderni. Degli uomini capace di andare da TikTok a intervistare Zagrebelsky, certo, a intervistare bravo. Un commissario bravo. Europeo, bravo, eccetera, eccetera. Bravo. Un uomo eclettico, che cazzo è? Ah, sì. Laura! Laura. Sì, ma mi dovete mettere insieme TikTok e un'intervista, che cazzo ne so, a Conte, un'intervista non al so ministro a chi. Intanto, al ministro intanto, Gualtieri, sì. Intanto sgarbi sulla vicenda Suarez. Vai, avanti tutta sgarbone, come la penso io naturalmente, senza metterci d'accordo, vai. Ci sono ministri e viceministri che non conoscono la differenza fra il Libano e la Libia e che non conoscono i congiuntivi e che fanno i ministri come Di Maio, cosa dimostrare. Quindi non si capisce perché dovremmo stabilire che un calciatore il cui merito non è nelle parole ma nelle capacità atletiche deve passare un esame di lingua. È ridicolo, quindi anche tu sbagli quando invochi quelli che non riescono a passare l'esame perché sono sbagliate le regole. A uno che deve giocare non è chiesto parlare, non deve fare comizi. A chi sta in Parlamento è chiesto saper parlare. Però, quindi è molto più grave che uno che sta in Parlamento non abbia una laurea, faccia il ministro degli esteri e ridicolizzi l'Italia facendo errori gravi di geografia e di storia, pensando che Matera è in Puglia, che non il fatto che un calciatore riconosciuto per i suoi meriti non conosca bene la lingua italiana. Allora, scusami, spero, Vittorio. Non capisco proprio la logica. Rispondere... Cioè, queste norme sono sbagliate. Ecco, sono sbagliate. Bravo. Allora diciamo questo, che sono norme sbagliate a cui le persone normali devono sottostare. Un calciatore si chiede altro. Allora, se tu vuoi dirmi che il decreto sicurezza è sbagliato, ti posso seguire. Perché dobbiamo rinunciare a un calciatore? Perché dobbiamo rinunciare a un calciatore? Cioè, allora, siccome potrebbe essere che tu non conosci il cinese, non puoi fare un programma in italiano? Ma tu usi le gambe, usi la lingua italiana dove serve? Cosa serve che lui parli in italiano? Con chi deve avere rapporti? Deve parlare con l'arbitro? Allora, io forse però allora, darei... io va benissimo, accetto tranquillamente di avere un ministro non laureato, va benissimo, ma non vedo perché devo chiedere la lingua a chissà quale livello a Suarez, non capisco perché. Alla grande, a voi che mi rompete il cazzo, alla grande sgarbone, alla grande. È vero che la questione della cittadinanza è diversa, esatto, parla italiano, eccetera, esatto, eccetera, esatto. E c'è una procedura, forse anche un caso di corruzione, forse è implicata anche la Juventus, non me ne frega un cazzo, forse. Forse c'è tutta è una truffa, zitto, ma io zitto, zitto, lo sto dicendo che cazzo zitto, zitto cosa. Intanto zitto. Ragazzi, sentite Di Battista che parla praticamente come un democristiano. Dibba. Ci vogliono gli stati generali, ma gli stati generali, amico mio. Bisognava, volevate fare la rivoluzione, mandavate a fare in culo tutti. Adesso siete diventati democristiani, forse tu no, e adesso mi dici che ci vogliono gli stati generali. Gli stati generali dopo la più grande sconfitta del Movimento 5 Stelle, gli stati generali. Siamo arrivati a questo, dai. Non funziona gli stati generali. Su, non funziona. Noioso, dai. Non fa ascolto, dai. E l'identità si ricostruisce esclusivamente attraverso degli stati generali, un momento generali. Democratico, partecipato, in cui possono esprimersi tutti i territori, mamma gli attivisti, mia. Anche quelli che se ne sono andati via, soprattutto loro. Ma che roba, ma diglielo tu, Carlo, diglielo tu, non ma funziona. Noi, ma no, Di Battista, ci vuole la gogna pubblica dei dirigenti. Ma una dai. Volta noi facemmo con Di Battista, naturalmente, una lunga chiacchierata, era appena stato nominato, sì, nominato ricordo, direttore sì, di Rai 2, naturalmente. Sì, certo. Andiamo a pranzo, a colazione insieme, ragionavamo sì, del Movimento 5 Stelle, di programmi. Di sì, ricordo e adesso benissimo. Vuole fare l'assemblea. Dai, l'assemblea. Ma che cos'è? Un istituto? Un liceo classico che fai l'assemblea? Dai, ridicolo. Naturalmente bisogna tornare in piazza col fucile, la spada, naturalmente. Ma ho capito, però il fucile non lo so. La violenza degli anni 70. Come fai a fare la rivoluzione così? Dai, che non esiste. Ma i dirigenti come vanno processati questi 5 Stelle che hanno perso le elezioni? Come faresti tu? Grande processo in contumacia, naturalmente. Diretta, naturalmente, live. Tutto live. In diretta televisiva con gli elettori che giudicano, naturalmente. Certo, gli elettori sono lo 0,9%, quindi il programma non farebbe alcun tipo di ascolto, naturalmente, perché ormai... Il partito è male. Però ci vuole una ghigliottina, Marta. Una ghigliottina, naturalmente. Lei. Ghigliottina pubblica, naturalmente, con le tricot che guardano e applaudono e fanno la maglia, mentre le teste, quella di Renzi, in premis. Ma che c'è Renzi con 5 Stelle? È stato lui a distruggerli, naturalmente. Beh, sì, beh, dai, quello. Lui è stato lui. Allora ragazzi, ci sono due casi incredibili in cui le persone vengono tacciate di sessismo. Iniziamo con uno, con il fantastico Corona. Ora io ragazzi, sentiamo prima Corona Berlinguer. È una cosa che riguarda la televisione, dunque non ce ne frega un cazzo. Sì, però io sto con la Berlinguer. No, io sono con Corona tutta la vita, perché se tu inviti Corona, Mauro Corona in televisione, sai benissimo che può sbroccare, sai benissimo che può utilizzare certi termini anche nei confronti della conduttrice, e se pensi che sia stato volgare, ma se pensi che sia ci vuole. E allora come si fa lo cacci, l'hai sospeso, la sospensione, ma che è la sospensione? È molto serio e molto grave questa dai, su, si parlava di un albergo, lui ha nominato un albergo, l'altro gli dicevano fare le marchette, un po' come diciamo noi. Esatto. Adesso non possiamo parlare di questo albergo perché è pubblicità e noi non possiamo fare pubblicità allora, in televisione. Volevo chiedere. Ah, senta Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Non posso farle fare pubblicità ad alberghi, diciamo, rispetto ad altri. La mando in malora. Allora, Mauro Corona, faccia quello che vuole. Non può fare pubblicità ad alberghi. Non può fare pubblicità ad alberghi. Mi è stato detto chiaramente. Volevo chiedere scusa, ma stia zitta una buona volta. Sto zitta perché lei nella mia trasmissione non può fare pubblicità ad alberghi. Allora. Se applicasse lo stesso criterio saremmo, come dire, dovrei cacciare Parenzo, Gottardo, tutte queste marchette che fate continuamente. Sempre citare alberghi mai, proprietari. Alberghi, sì, come no, sempre, mai sempre. Citato, mai. Sì. Non ci sarà mai una puntata. Ma figuriamoci, te la vado a trovare, te la vado a trovare. Ma figuriamoci. Allora la sua trasmissione da stasera la sua trasmissione se la conduce da Gallina. Allora, se diventa maleducato e sgradevole, senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi Gallina lo dice a chi lo vuole, ma non si permette di dirlo a me. Chiaro il concetto? Ecco. Dopodiché ci sono delle regole che anche lei deve rispettare. Basta. Benissimo. Basta. Non dico più niente. Allora, Amendola. Mi stia bene. Ma tra l'altro non capisco che male ha fatto la Gallina. Cioè Gallina che starnazza, Bianchina, una gallina che parla. Non capisco qual è l'insulto. Gallina, dai, perché? Ma gallina è un'offesa. Ma perché è un insulto? Certo, perché che male hanno fatto le galline? Nulla a che vedere con quello che avviene qui alla Zanzara, cioè, no, nulla, ma non c'è dubbio. Però voglio dire, Gallina, le ha detto Gallina. Gallina, ma quale offesa brutto, è Gallina? Un'offesa a una signora in diretta non si dice. Ma dai, Gallina, ma che ti hanno fatto le galline? Scusa, dai. Brutto, un'offesa brutta è una caduta di stile. Più tatuaggi, meno cervello. Basta guardare quel fenomeno da circo vagamente antropomorfo del Brasile. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Parenzo, cane rognoso, come ti permetti di prendere in giro e insultare la Lores? Tu che con la tua trasmissione in onda hai fatto meno ascolti di quanti voti ha avuto lei. Detto questo, una bottarella alla Lores la darei volentieri, mi fa troppo sangue. Il legionario, il grande legionario. Vorrei dire a questo legionario, coglione, che quando questo coglione che quando lui farà un milione di spettatori, quando mi telefona, il legionaire. Tu sai quanta gente ha ammazzato? Non te lo inimicare troppo. Sai quanta gente ha ammazzato quel ex legionario? Quando lui farà un milione di telespettatori mi telefona. Attenzione al legionario. L'altro caso, dopo quello di Corona, riguarda invece Sallusti e Concita De Gregorio. Ora ragazzi, non tutti sono obbligati a sapere chi è Concita De Gregorio. Sallusti lo conoscete in molti sicuramente. Beh, no, Concita De Gregorio magari non la conoscete. È stata direttrice è dell'Unità. È una giornalista, non c'è dubbio. Firma di Punta allora, di Repubblica. Lei stessa ha fatto del nome Concita un suo brand. No. Però siccome no, ma che cazzo dici? C'è una rubrica sul giornale dove scrive che si chiama Io Concita, non so come cazzo si chiama. Così, esattamente così. Dunque, se Sallusti la chiama Concita mentre gli altri li chiama per nome e cognome, non so come, non è per sessismo, non è perché è una donna e dunque la disprezza, è semplicemente perché lei si fa chiamare così. Dunque non rompesse i cosiddetti cabasisi, cioè i coglioni. Chiaro? No, ovviamente scherzo. No, come dire, io non sono d'accordo con Concita perché, però insomma, Sallusti, qualcuno scusi, li deve indicare questi candidati della politica. Perché mi chiama per nome e io la chiamo per cognome? Mi scusi Sallusti, io la chiamo sempre per cognome. Mi scusi dottoressa, no, non sono d'accordo con la dottoressa. Ma basterebbe anche il cognome, mi basterebbe anche, non sono d'accordo con De Gregorio. No, non voglio il titolo. Mi dimenticavo che voglio il cognome. Io non mi chiamo Maurizio, Federico, Filippo, Matteo. Non puoi mischiarti con l'ignorante. Ma no, dottoressa, le chiedo guarda, scusa. È un, mi scusi, no, dottoressa. No, non la buttare, non la buttare su questo. Io non voglio il titolo. Che siccome comunque, quando che ci comunque... vediamo di persona ci diamo del tu e scherziamo. Ma io ti chiamo Sallusti, a parte che scherziamo non tanto. Comunque ti chiamo vabbè, Sallusti. Magari anche il titolo della tua rubrica, invece in Concita, in lui che caso, ne è un lettore accanito. Diciamo ai telespettatori che quando mi vedi Milano, in privato, no? Quando lei, dottoressa, mi vede in privato, che capita che ci incontriamo, mi dà del tu e ci salutiamo con grande affetto. Adesso in televisione le fa schifo. Io le dia del tu. No. Ora io non ho detto. Cercherei di recuperare un tratto politico alla discussione. Non vorrei vedervi per nome e tutti gli altri. Sono spaventata l'idea di vedervi fare la pace. Io vorrei stabilire un principio. Non capisco perché chiami me per nome con il nome di battesimo e da Milano con il suo cognome. Vabbè, perché e Emiliano sei più affabile, con il suo cognome. L'accusa cioè, di sessismo, diciamo, ma in realtà persona con il credo nome che di sia una maggiore affabilità. È una, diciamo, indizio. Dottor Floris, chiedo scusa. No, ma vabbè, non so. Sa come ne usciamo, dottor Sallusti, con Nando Pagnoncelli? No, ne usciamo. Ne usciamo col fatto, a parte che secondo me tutta scena ha voluto fare una sceneggiata lì in diretta, ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Lei stessa c'è si presenta in quel modo, forse. Ma non me ne frega un cazzo forse delle tue analisi buoniste e cerchiobottiste e democristiane. La realtà è solo una, che è follia, siamo alla follia. Ma perché sì, non si deve sentire? In questo caso come... hai ragione, ma dai, però su, ma Concita parla, rispondi, Concita. Chiama Alessandro, chiamalo Sallusti, mandalo a fare il culo. Concita, un equivoco, cagare, però dai, l'obiezione su. Ci può stare. Mario Giordano, vai, vai. Aspetta, Mario dov'è? Giordano, senti. Dov'è, ospite? No, aspetta. Scusa. Fiumi di parole, dice, era una specie di, no, di montaggio con lui in una barca da rafting, non so, una cosa del genere. La signora Carla non ci mangia con le parole. Con queste parole ci riesce a metterle sulla tavola? Le mangia le parole, signora Carla? No, non le mangio. No. Non le ci riesce. Non le mangio le parole. Accidenti, che cosa strana che stiamo scoprendo stasera. Siamo fuori dal coro perché tutti parlano. Ma noi sentite che parlano. Ma la signora Carla non ci mangia con le parole. E lui sì, però. Ma lui sì. Francesco non riesce a pagare le bollette con le parole. Tutta ma una carrellata Giordano di sì. Mario Giordano, che è molto bravo, infatti, sì che ci mangia con le parole. Noi anche. Ma Mario Giordano ci mangia con le parole. E tu zitto. Ma il signor Francesco con queste parole ci riuscirà a pagare una bolletta? Ci riesce Francesco? Assolutamente no. Buonasera direttore. Vedete che non riesce. Io stasera sto facendo queste pazzesche. Ma che pazzesche. Non si riescono a pagare le bollette con le parole. Una roba incredibile, geniale, sì, una sì, trasmissione geniale. Di parole che dice sì. Che con le parole esatto. Non si riescono a pagare il le massimo bollette. Della stupendo. Demagogia. No, lui no, di che cosa è vive? È un genio. Siamo d'accordo, ma si può dire che è demagogia pura? Allora, o no? Ragazzi, la Capua, a proposito di parole, la Capua, che è demagogia la pura, veterinaria Capua. La veterinaria Capua, a parte che ci dice che la primavera, il vaccino come al solito sarà nella primavera, dice del 2022, forse si è sbagliato, eccetera. Ci dice questa cosa geniale, effettivamente non ci abbiamo pensato. È da 6 mesi che sentiamo questa cosa qua. Giovani, se infettate i vostri parenti è un macello. Tutto questo in televisione. La veterinaria Capua. Ragazzi, sentite che colpo di genio, non lo sapevamo. Questo è il segnale che il virus sta circolando. Ma, e io adesso, però, siccome sta circolando, diciamo, faccio appelli anche da questa trasmissione, questa volta mi rivolgo ai ragazzi. E ai ragazzi, giovani adulti, chiedo per favore, lo so che questo non è un problema vostro, ma vi garantisco che se qualcuno della vostra famiglia va a finire in ospedale, è un macello per tutti, perché bisogna occuparsi della persona in ospedale. No words, senza parole. Matteo da Roma, vai. Matteo da Roma, dimmi. Matteo. Finito di dire cazzate? Dimmi, Matteo, dimmi. Hai finito di dire cazzate? Ieri penso hai raggiunto proprio l'apice su della tua cosa? Carriera da cazzaro. Su che cosa? Su che cosa? Dimmi. Ti hai detto tre cose, una più cazzata dell'altra. Dimmi, ormai hai superato pure il tuo mentore Salvini. Dimmi. Io non ho mentori, Hai detto ti pare che deve imparare l'italiano per venire a giocare a calcio? Secondo me sì. Perché non deve imparare l'italiano per giocare a calcio? Lo sappiamo, per prendere la cittadinanza, lo sapevo, imbecille. Lo sapevo, cretino. Perché gli altri hanno tutti i posti occupati da extracomunitari. Lo so, cretino, imbecille. Lo so perché lo do per scontato per i cretini come te. Ma che sta 10 anni in Spagna per venire qua a giocare? Ma certo, ma questo è logico. Questo è logico. Perché serve alla Juventus, non è logico, certo che serviva, certo, fino a un certo punto serviva, fino a un certo punto serviva, poi andiamo avanti. Quindi se stai in Spagna da 10 anni ti pare che... Ma certo, secondo me è follia. Quindi un siriano che sta in Italia... No, non è un siriano, uno dell'Uruguay che vive in Spagna da anni, non è la stessa cosa di un siriano. Esatto, quindi un siriano che vive in Italia per 10 anni, il giorno dopo, domani, può andare a chiedere il passaporto. Quello ha la moglie pure mezza italiana, per me dovrebbe avere il passaporto italiano domani mattina. Uno che guadagna 10 milioni di euro l'anno, paga le tasse qui, deve avere la cittadinanza con la moglie italiana. No, i miei amici non me ne frega un cazzo, anche fosse dell'Inter, anche andasse all'Inter, coglione. Quindi non pagano queste tasse, perché per venire qua gli fanno le agevolazioni. Beh, qualcosa pagherà, che dici? Qualcosa pagherà, cretino. Fermo là, aspetta, ti riprendo dopo, coglione. Fermo là, aspetta, non posso. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024. Oppure se vuoi mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Valentina Nappi sembra Sgarbi quando porta i discorsi a inoltranza, proprio pur sapendo di avere torto. Come cazzo fai a giustificare uno che si masturba in pubblico? Ma se io passo con mio figlio di 6 anni, c'è stato uno col pisello di fuori che ce l'ha in mano, secondo te che cosa succede? O gli taglio la mano o gli taglio il pisello? Ma che cazzo di ragionamento è? Ha ragione perfettamente l'ascoltatore dell'altra volta, avete trattato l'aborto in modo schifoso, dovreste vergognarvi. Luciani, si incestusi, pezzi di merda! Un reddito di cittadinanza, parli proprio tu, coglione, pezzo di merda, sei un pezzo di merda, borghese di merda, fanculo tu e chi ti sta dietro. Laura, divina, eccomi amore, dimmi, sono io la divina. Fermi tutti. Paco da Belluno. Tuo amico Paco. Ciao fratello, grazie per aver chiamato. Ciao fratello, ti abbraccio fortissimo, amico caro. E grazie. non so veramente come ringraziarti. Grazie per essere venuto in Italia, per essere italiano e aver messo le tue radici qua. Noi abbiamo bisogno di te. Lingua in bocca, senti lingua in bocca. Volete anche toccarvi? Non lo so, volete toccare il pisello? Volete amoreggiare? Volete amoreggiare? Ma vi siete toccati? Ma non è vero, a noi piacciono le donne, basta dai. Dunque vi stanno sul cazzo i gay? Vi stanno sul cazzo i gay? No, non questo. A poco stanno sul cazzo i gay sicuramente, guarda. No, ma neanche per sogno. Ma figuriamoci, ma figuriamoci. Ma figuriamoci, spada di fuoco, dimmi. Io ne conosco, Sì, però basta che non mi rompo i coglioni, no? Basta che non mi rompo i coglioni. No. Dopo avermi insultato l'ultima volta, dopo avermi dato del fascista, del peggio. Ma sai che oggi? Io avevo pensato veramente, mi ero detto oggi parolacce non li dico neanche così, uno non li dico così, ma ho cambiato idea. Sì, dimmi, bravo. Dimmi, perché tu sei il solito pezzo di merda, tu sei il solito fascista. Cruciani, tu pensi che io ti chiamo alla radio? Sì. Se dove star qua, cosa devo dire? Cruciani, che bello che sei. No, chi l'ha detto? Tu sei proprio bruttissimo. Cruciani, sei bravo. Ma tu puoi dire quello che vuoi, a me coglione, che cazzo me ne frega. Sei un coglione, sei uno zozzone. Allora dillo a questa testa di cazzo di fascisti dopo che io intervengo. Siamo a dire questo caso. Io dell'Italia non mi lamento dell'Italia, io mi lamento dei fascisti come te. Bravo. Io mi lamento dei fascisti, io guarda, io ti dico. Ma i fascisti non ti farebbero parlare, amico mio, invece ti facciamo parlare, spada di fuoco. Io non ho neanche diritto, io non ho né voglia né diritto di criticare l'Italia. L'Italia è la mia patria. Ma tu puoi dire quello che vuoi. Io la casa ce l'ho qua. E va benissimo, ma chi te la vuole togliere? Questa pezza di merda fascisti là. Bravo. Non hanno un cazzo, io ho più diritti di loro in Italia. Ma di io ho la casa, bravo, lavoro, ho un lavoro regolare. Ma chi ha detto il contrario? Ho le tasse da 26 anni. Da 26 anni la per esempio, uno come Polegato, lo conosci? Mi sono comprato la casa in Italia. Io ho più diritti di questa tassa di cazzo. Ma di chi? Io non sono un invasore fiscale. Ma chi lo dice? Il delegato sindacale. Ascoltami qua, no, ma voi dite così. Ma allora, chi lo dice? Dicono che devo andare via? Ma dove devo andare? Che te ne devi andare? Ma io in Senegal ho la casa in Senegal, io ho la casa solo in Italia, ma dove devo andare in Senegal? Ma dove? Chi ha detto che te ne devi andare? Chi lo dice? Ma hanno sempre detto. Ma chi lo sostiene? Ma chi? Questi cani che chiamano? Questi cani? Merda di fascisti che... Ma chi sono questi qua? I tuoi amici, quando entrano, ti vogliono abbracciare tutti quanti? Ma chi? Ho sentito ieri. Ma stiamo scherzando? Ma si ritrovano in te. Ma chi? Cruciani, ma tu, a te fa piacere che io ti dico sei fascista, perché tu dentro di te sei fascista. Scusa. Perché con la radio che fai, col personaggio che sei in Italia, non ti puoi permettere di dire che sono fascista. Ma quando uno entra che sono orgogliosamente fascista, tu sei contento, tu godi cazzo. No, tu godi come un cazzo. Ma figuriamoci. Quando dici che non sei, ma tu sei juventino, tu sei un gobbo cazzo, tu sei un gobbo. Senti come insulta. Tu sei juventino cazzo. Senti come insulta. Tu sei la squadra dei truffatori. Voi siete dei truffatori, cazzo. Ah, pure contro la Juventus, truffatori. Ti faccio portare via tutto. Ti faccio portare via, spada di fuoco. È perché non c'hai un cazzo. Quanti trucchi, senti. Non hai coglioni. Ma a cosa ti riferisci? Non lo dico io, lo dice la giustizia italiana. Allora vai avanti. Perché io qui sono in Italia da 26 anni che lavoro, io mi voglio mantenere la mia cittadinanza senegalese, i miei figli che sono nati qua, allora Suarez ha più diritto dei miei figli? Allora? Rispondimi, Suarez ha più diritto dei miei figli. Senti, perché i tuoi figli quando figli? Vogliono perché prendono, i miei figli devono aspettare 18 anni? Ma che cosa c'entra? Quello è adulto, i tuoi figli fino a 18 anni, perché le regole sono queste. Infatti allora, Suarez fino a prova contraria, se hanno violato delle regole pagheranno, non ti preoccupare. Vedremo che fa il giudice. Ma poi tu stesso hai detto che non... Ma sti cazzi, ma lascia perdere il calcio che non sei una minchia. Pago, devi solo vergognarti, cazzo. Senti, spada di fuoco, hai rotto il cazzo, capito? Hai rotto il cazzo, ha detto delle cose vere, spada di fuoco. Cruciani, questo tu non puoi negare, Cruciani, Che cosa? I fascisti che entrano a insultare Parenzo. Ma chi se ne frega? Ma noi ospitiamo te. Cosa dicono di te? Ma non lo so cosa dicono di me. Che li faccio parlare? Come faccio parlare te? Faccio parlare pure loro. Perché non li vuoi far parlare tu, i fascisti? Non li vuoi far parlare? No, ma perché io non odio nessuno. Io non odio nessuno. Non li vuoi fare parlare i fascisti? Non li vuoi fare parlare i fascisti? Non devono parlare questi. In un altro paese serio, questi qua non parlano. Lo parlano come parlano. Ah, non possono parlare. Ma fai parlare di Hitler. Fai fare una trasmissione tipo la Zanzara e invita questo qua che fa, parlano così di Hitler. Ti mettono dentro la testa. Bravissimo, primo, bravissimo. Tu primo vai dentro. Ma sicuramente, vado dentro se ci fosse, se ci fosse Hitler o ci fosse Mussolini. Ma questo non c'è dubbio. Vuol dire che non è normale che dentro fuoco, tu insultano, fanno delle cose. Sì, dimmi. Non ho capito, ma perché un fascista non può parlare? Non ho capito. Invece vuoi parlare tu? Non ho capito. Perché uno perché che si fomenta odio. Ma non dire che te l'ha spiegato. Te l'ha spiegato. Odio, t'ho detto, ma cosa fanno altro? Ma non dire cazzate. Ma cosa fanno altro? Dicono quello che pensano, noi gli diciamo che. Ma stiamo scherzando? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, Cusani? Ma qual è il problema? Qual è il tuo problema? E tu, dai retta anche, ma tu dai retta anche, cazzo, questo fascista. Perché loro si trovano in te, perché tu sei un gran fascista, cazzo. Aspetta, Cusani. Aspetta, fermo un attimo, ascolta. fermo un attimo lì, non te ne andare, fermo, non te ne andare, che oggi non lavori. Luigi da Modena, vai, Luigi, dimmi. No. Luigi, dimmi. No. Ascolti, volevo parlare di cacciatori. Dimmi. Perché voi fate sempre elogio della caccia, tu in particolare, ma questi sono una branca di alcolizzati, di beoni. Sì. Ma chi te l'ha detto? Sì, ma ti faccio portare via pure il buco del culo, lo sai, pure l'ultimo pelo del buco del culo. Ti faccio portare via tutto, ti faccio fare un culo così. Quando ero ragazzo li vedevo al bar, noi tornavamo da fare serata in discoteca, così li vedevamo in bar. Sì, e si trovavano in alto 10 a fare colazione con cornetta e sambuca. Perché non si può bere la sambuca, non ho capito. Non si può bere la sambuca la mattina, sono cazzi loro. Con un fucile a sparare a cazzo di quello, cane, no. Quello se ne occupa la polizia, se fossero ubriachi. Tu hai dato ai cacciatori degli ubriaconi. Ma sei un povero cretino, questo è il punto. Ma sei un povero coglione, ti posso dire, sei un povero coglione. Vabbè, io sarò un coglione, ma loro sono alcolizzati, sono dei beoni, tutti, armati e ubriachi, uno e poi gli permetti questo può andare in giro, così. Se uno è ubriaco, se un cacciatore è ubriaco e viene, come dire, sorpreso dalle forze dell'ordine, paga le conseguenze come un qualsiasi altro cittadino. Non sono in generale degli ubriaconi, come se io dicessi che i veneti sono degli ubriaconi, come una volta disse il signor. Che la legge prevede, cretino, è normale che lo prevede, che se tu vai in giro ubriaco vieni fermato dalla polizia con un'arma in mano, ti prendi una multa, ti prendi una contravvenzione e vieni denunciato, è normale, guarda, è così. Io ho guardato, poi magari... Ma tu non sai un cazzo, tu hai guardato su vari siti internet e non c'è nessuna legge che prevede il controllo in generale per categorie, cretino, sei un poveraccio, questo è il punto. Sei un povero imbecille che ha guardato quattro stronzi sotto casa sua, ha guardato quattro notizie sull'internet e ha detto vedo quello che mi capita a me. Tu vedi il nulla, questo è il punto, perché sei il nulla. Elia da Roma, camionista fascista, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire a Pago, Elia? Mamma niente, io voglio solamente dire una cosa. Tu sei molto fascista, giusto, Elia? Ah, io sì, sono orgogliosamente fascista. Ecco, Paco, cosa vuoi dire? Paco, pure nazista, lo dice non apertamente. Metterti la cintura quando vai sul camion. Scusami, Paco, cosa vuoi dire io a questo qua? Io non metto mai Paco. La cintura io. Bravo. Paco. Dimmi. Cosa vuoi dire a Elia che si dice? Ma cosa vuoi che di qua? Uno di genere. Ma tu ti senti più italiano di Elia? Beh, certo. Sicuramente. Ma non so più il dubbio. Elia, tu sei un coniglietto di salotto, cazzo. Pago. Se io vengo a paese tuo e faccio una dichiarazione come tu hai fatto, a me al paese tuo mi tagliano la testa. Ma figurati. Ma non sai neanche qual è il suo paese. Ti permettiamo di fare, di dire quello che cazzo ti pare, e di per cui porto rispetto per l'Italia e per gli italiani. Ma io per l'Italia ho sempre avuto rispetto. Ho detto per primo. Io sono il primo. Non io ha rispetto ho detto, per non, te. Non, non ha rispetto non per te. Io non ho ni certo, voglia ni io, certo. Io non ho ni voglia ni diritto di non rispettare l'Italia. Ma perché? Per cosa? Ma cosa faccio qua a questo punto? Ma stiamo scherzando. Tu, secondo te Elia ha diritto di voto? Dovrebbe avere diritto di voto? Secondo te dovrebbe andare in galera perché dice di essere fascista, antisemita? Ma sicuramente. Anti... Ma sicuramente. In galera dovrebbe andare in galera. Deve pulire i bagni in galera. No, Paco, ma balla a cagare Paco, vada. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Mentre in Italia stanno per approvare la famosa legge sull'omofobia, nei paesi veramente civili, soggetti come quel Luxuria, che non sarebbe poi altro che Vladimiro Guadagno, un culattone rovinato, vengono impalati nella pubblica piazza. Due ricchioni che si baciano è la scena più vomitevole che si possa vedere. Mentre due donne che si baciano mi fanno arrapare come un babbuino. Gottardo, sei diventato anche tu lecchino di quell'assenteista pregiudicato, parassita di Sgarbi. Vergognati, sacco di lardo. Ma tanto il vostro padrone ne ha per poco, al prossimo infarto schiatta. Lorenzo, nano di merda, che cazzo hai da festeggiare? Avete perso un'altra regione. Ora sono 15 a 5. Signor legionario, signor legionario. Mamma mia, ragazzi. Potrebbe diventare veramente un editorialista fisso di questa emissione radiofonica. Noi abbiamo anche un ex legionario, molto razzista, molto. No, fascista non credo che sia fascista, sai. Molto razzista. È già tante cose. Sì, è già tante cose, sì. Però ha anche ucciso delle persone. Ti avverto che ha anche ucciso delle persone. Sì, diverse persone in Africa, in Medio Oriente, in Indocina, eccetera. Cioè, quella una volta si diceva l'Indocina, ti ricordi? Come no? C'è Paco da Belluno, lo vedrei bene un confronto tra Paco da Belluno e il legionario. Non ha ucciso nessuno, non ha ucciso nessuno. No. No, non puoi dire questa cosa qua, non ha ucciso nessuno. Non lo puoi dire, non lo puoi dire, non lo puoi dire. Paco da Belluno. Riassumiamo. No, aspetta, Paco, riassumiamo un attimo. Aspetta un secondo. Cazzo, mi fai condurre o no? Allora, riassumiamo la situazione. Allora, Paco da Belluno, detto anche Spada di Fuoco, comparì in questa emissione radiofonica anni fa, presentandosi come uno che aveva subito un torto dalla sua ex compagna, che gli aveva sottratto, non gli faceva vedere sua figlia, va benissimo, per carità, perché era testimone di Geova, lo ricordo benissimo. Noi lo soprannominammo Spada di Fuoco, Non abbiamo mai messo in discussione il fatto che lui sia attaccato all'Italia, che sia un lavoratore, che paghi le tasse. Dunque è inutile che mi viene a rompere i coglioni a me semplicemente perché alcune volte sono d'accordo con Salvini. È inutile che mi chiami fascista. Ma chi ha detto che devi andare via? Chi? Fai nome e cognomi. Mi hai insultato, mi hai detto pezzo di merda e fascista più volte. Capito, ma tu sei un fascista, Cruciani. Ma vai a fare il culo, ti sto facendo parlare che sono fascista, cretino. Sì, perché ti fa piacere che li trovi. Ascolta, so che tu ogni tanto vieni anche a Bassano del Grappa, vero? Ma no, Bassano del Grappa, veramente mai a Bassano del Grappa. Posso dire una cosa? Ma col cazzo che venga a Bassano, che cazzo venga a fare a Bassano del Grappa? No, volevo devi salutare la Stefania di Bassano. E chi cazzo è Stefania? Ma che siamo? La radio locale Bubù, la radio Bubù. Ma sai che questo cazzo di programma, una persona normale non lo devi ascoltare. Ma perché devi dire così? Ma che cazzo te ne frega? Ha ragione. Io salverei 1%, 1-2% perché conosco gente normale che l'ascoltano. Ma hai ragione. Ma una persona purtroppo normale non dovrei ascoltare questa cazzo di programma. Ma questo rovina le persone. Cazzo. Ma perché rovina? Spiegami. Io sono rovinato da Ma tu sei un povero pazzo. Tu sei un povero. Ma tu sei un malato di mente. Mi hai anche insegnato una cosa, sai. Ma io ho anche imparato tante cose. Ma sai che io non sapevo cosa era lo squirty. Sai che l'ho imparato Lo vedi? Trasmissione. Ma tu fai squirtare Paco, ma tu fai di trasmissione, ma di Dio, ma perché si va a ascoltare una radio di genere? Mi fermo là, Cruciani. No, ma scusa, spiegami un attimo, ma tu hai fatto mai squirtare? Hai mai fatto squirtare o no? Hai mai fatto squirtare, Paco? Spada di fuoco, torna alle tue origini. Torna alle tue origini, Spada di fuoco. Io non sapevo cosa era lo squirt, non lo sapevo. Non lo sapevi perché magari vedevi uscire dall'acqua, vedevi uscire. Uscire dal liquido da qualche ma figa che saputo, ti sei trombato. Io ho saputo ascoltando questa cazzo di trasmissione. Ma è terribile. Io lo, insomma, è una roba incredibile. Ma è terribile. Ma questa trasmissione non è una cazzo. Io sono hai ragione. Io non so come dirti che hai ragione. Vai a fare in culo, Pago. Devi andare a fare in culo. Ciao. Enzo dalla provincia di Cuneo, vai Enzo. Mamma mia. Eccomi Cruzo. Dimmi. Ti vorremmo andare a prendere per un motivo. Perché non credi al fatto che uno non possa chiavare da 20 anni? No, 15, impossibile, 16. impossibile. Nel a meno che uno non... a meno che nel mio caso così. Cioè, tu non... da quant'è che non trombi, scusa? Da circa da quando avevo 20 anni. Comunque chiamano dei casi patologici rari qui, questo conferma la mia tesi. Sempre sia vero, ma... sempre sia vero, sì, sempre sia certo, vero. Sempre sia... da 25, da quando avevo 25 anni che mi segue uno psichiatra, ecco. Ah, ecco. Ma certo. semplicemente perché sentivo le voci, adesso sono guarito e no, tu e mio, quanti anni hai adesso? 36. Dunque bene. Tu non scopi da quando hai 20 anni? Non scopo e non faccio l'amore con passione. Beh, quello che è scopare, fare l'amore, il cazzo che scopare, ti pare. Esatto. Da, cioè, non inserisci il tuo uccello dentro una figa, vabbè, diciamo la verità. No, ma questo per capire. Non per, servono. Non so, magari ti masturbi. Sicuramente in questi 16 anni ti sarai masturbato. Immagino. Se lo faccio mi pento e mi dolgo. E perché ti penti? Non ho capito. Vabbè, legittimo. Perché è interessante questo. Mi sembra una violenza, ecco. Che violenza. Una violenza? Perché una violenza? Una violenza nei miei confronti perché. Essere sprecato tra virgolette, ecco. Cioè, non ho capito, tu sei diventato da questo punto di vista uno di quelli che pensa che o lo fai per procreare oppure niente? No, non per procreare, ma più altro per farlo con passione, con dunque tu hai 16, ecco. In 16 anni quante volte ti sei toccato il pisello? Non riesco a contarla, ma ti dico in media al mese ti posso dire forse una volta, ma una volta al mese, una volta, sì, al mese, una sì, volta sì, al mese. Sì. E dentro proprio magari anche la punta, cioè l'inizio di un rapporto sessuale con qualche donna o con qualche uomo, che cazzo ne so. No, qua. Ti dico, la povertà in 10 anni mi ha fatto capire tante cose, sicché. Ma che c'entra la povertà, scusa? C'entra, perché non puoi andare in giro e da solo, soprattutto senza amici con cui sono sola, ecco. Ho una vita agiata. Sicuramente. Ha detto povertà e poi vita agiata, ma questo è proprio matto completo. Adesso sì, perché da 2 anni che ho una posizione lavorativa stabile, sto comprando sì, casa. Ma cos'è che non ti, cioè, cos'è che non ti porta ad avere rapporti con una donna? Perché è strano che uno in 16 anni non inserisce l'uccello. Io ripeto questa espressione. La motivazione principale è che io a 19 anni, quindi, ho fatto una promessa alla, non so se conosci la Sacra di San Michele. La? Sacra di San Michele, una abbazia. No. Guarda, non frequento le abbazie, scusami, per carità, è legittimo. Sì, in questo luogo ho promesso a questa mia ragazza di allora che mi sarei fermato e sposato con lei, diversamente con mai nessun'altra. E questa a un certo punto se n'è andata perché i rapporti e quant'altro. Esatto. Questa è signora è scappata perché ti considera un matto ed eccoci qua, tutto spiegato. No, perché no, è stata una cosa molto profonda, il rettore, il padre. Sì, ma perché insomma, ti ha lasciato? Matto. Perché vi siete lasciati poi? Perché lei aveva 9 anni in più, ottimo. E pensare che di fermarsi ad avere io qui 40 anni e lei 50, vabbè. Mi è stato contrariato. Enzo, posso dirti, scopa sì. Quanto prima. Quanto prima. Il pagamento non puoi toccare le tette, non puoi. Quanto prima passa l'azione? 16 anni sono davvero troppi, tanti, sono tantissimi 16 anni, tantissimi, non ci posso pensare. È una patologia, ma che cazzo c'entra che lavori 7 su 7? C'è gente che conosco che lavora 7 su 7 che tromba 7 su 7 anche, no? Ciao Enzo. Comunque okay, incredibile ragazzi, i casi degli ultimi giorni di persone che non trombano per anni, cioè ne abbiamo sentiti un sacco. Casi umani, certo. È una cosa incredibile. Ma abbiamo con noi un sovversivo, uno che è stato censurato in Russia, Pupo, caro Enzo, come stai? Eccoci ciao qui. Ciao Giuseppe, buonasera, come sto? Dopo ciao David. Ciao caro, ciao. Come sto? Come un sovversivo, io non credevo, ma è andata così, è incredibile. Insomma, no? la tua Russia ti censura. Che cazzo è successo? Non che la Russia che ami, cioè perché tu ami la Russia, io lavori. Amo la Russia profondamente, stimo molto anche il suo leader, Putin, sai. Certo. E quindi è veramente una doccia fredda per me è stata, proprio un fulmine, come si dice, a ciel sereno. Ho scritto una canzone proprio per la Russia, pubblicata in duetto con un cantante russo giovane che è un mio amico, l'ho scritta proprio nel periodo del lockdown e l'ho pubblicato tre giorni fa, quattro giorni fa e subito sono arrivate le mazzate della censura. Ma perché sono dei criminali, è un governo di criminali e questo ma è no, ma io guarda mi danno del sovversivo perché questa canzone sembra che vada ad intaccare certe sensibilità legate al problema del Covid. Ma cosa recita il testo? Cioè, qual è la parte controversa? Cioè, qual è la parte che è stata censurata? Voi non l'avete sentita, quindi, ma giusto? Figuriamoci falla se sentire, ma facciela sentire. Ma figuriamoci se ci mettiamo a sentire, io sento tutte le canzoni tue, ma non quelle in russo, ma non una in russo. No, ma sentiamola in russo invece è importante. Ma non è in russo, è cantata in duetto in russo e in italiano, si intitola Fuori del Gregge. Allora, semplicemente c'è un video, più che altro è incriminato il video. Ma sentiamone, io ho fatto un video. Pezzo, scusa. Com'è? No, aspetta, allora dimmi un po', No, devo raccontare bene. Ho realizzato un video, una sorta di cartone animato insieme al cantante, giovane cantante russo Alan. E in questo video si vede una pecora, pecora a un certo punto che esce fuori dal gregge con una mascherina antigas e questo è stato il primo problema perché è stata interpretata in un certo modo. Poi si vede un aereo che vola sul mondo con tutti dei lupi, con dei lupi che si affacciano dal finestrino. Bellissimo. E poi degli scheletri con le mascherine. Ecco, tutto questo, questi tre punti incriminati hanno fatto pensare ad una mia posizione sovversiva nei confronti di questa terribile malattia della quale ti hanno preso per negazionista praticamente. Ma non, sì, ma no, io non penso, ma non so, perché è un regime, quello caro Pupo, è un regime. Ma io guarda, vado in Russia da una vita, li adoro, andavo in Russia ai tempi non gli puoi far dire che è un regime quando lui è chiaramente. Ma è un regime, ho capito che ma non è un dire. Regime, dai, ho su capito, lui va dagli oligarchi e siamo tutti con lui, io voglio andare anch'io con lui dagli oligarchi, ma quello lì è un regime. Ma scusami, la canzone dice a un certo punto c'è un soggetto asintomatico nascosto, va scovato ed isolato ad ogni costo, meglio trattenere il fiato e lo starnuto e aguzzare il fiuto, gira un lupo mascherato da coniglio che ti svuota cuore, testa e portafoglio, c'è chi ha ipotecato tutto, anche il di dietro e l'occhio di vetro. Queste sono in pratica è il punto di vista di un artista o sedicente tale che sarei io, insomma un creativo che nel periodo del lockdown ha guardato questa situazione sotto un punto di vista direi molto creativo. Però scusami un attimo, al di là di quello che pensano i russi, di cui alla fine non ce ne frega un cazzo e mi dispiace che sia stato censurato, però è anche un modo per grave in realtà. Però farei intervenire l'ambasciata secondo italiana. Te questa molto caccia agli asintomatici che c'è in giro, no? Perché c'è una caccia agli asintomatici, non è un po' eccessiva? O adesso per carità adesso io c'è una credo. Io credo che questa caccia agli asintomatici sia più che eccessiva, sia anche un po' inutile, perché alla fine ci sarà un continuo, dovremmo vaccinarsi tutti. Io faccio due controlli, due esami serologici a settimana per andare al Grande Fratello e sono controllato, ma potrei a un certo punto incontrare qualcuno quando esco dal camper dopo il test e magari quello ce l'ha, me lo trasferisce, non lo so, capisci? È difficile, insomma, ecco. No, ma ho capito, però tu sei un po' tra quelli che dicono come me che c'è un terrore, allora, in giro. C'è una cosa terroristica in giro. Giuseppe, tu mi conosci bene, noi ci frequentiamo, io faccio fatica ad allinearmi alle regole, alle indicazioni governative, io faccio fatica da quando sono nato, sono fondamentalmente, tendenzialmente, attento, fammi finire però, sono tendenzialmente anarchico, la mia vita è sempre stata una vita controcorrente, ma non sono mai stato sovversivo e poi rispetto le regole con fatica, ma rispetto le regole perché riconosco che un mondo senza regole è un mondo di caos. In pratica però devo dire che molte volte rispetto delle regole perché ho persone che si fidano di me, la mia famiglia larghissima, io devo lavorare, rispetto le regole esclusivamente anche non condividendole, esclusivamente perché ho bisogno e ho voglia di svolgere il mio lavoro. In pratica sono dentro a un sistema del quale condivido poco, che mi accetta molto volentieri perché ha bisogno anche di gente come me, ma questa è la mia posizione. Stop. Beh, questo però è molto onesto, perché lui dice: io non condivido quasi un cazzo di quello che mi impongono, però siccome devo campare, devo lavorare in questo sistema, mi adeguo, certo, sostanzialmente mi adeguo. Bisogna dire però, a Pupo, che anche il Financial Times ha elogiato l'Italia per come ha tenuto sotto controllo la, la pandemia. Io non ho criticato l'Italia, io non sto criticando l'Italia, ma anche se dovessi dire, siccome parliamo di Russia, no? I tuoi amici russi hanno detto un sacco di balle invece. I tuoi amici russi hanno detto un sacco di balle perché hanno nascosto per un periodo la pandemia e adesso censurano pure il tuo video. Vergogna, vergogna. Però scusi, volevo parlare di un'altra cosa, Enzo, volevo parlare di un'altra cosa, perché dimmi che mi volevi dire. Io dicevo che Putin ha gestito all'inizio la pandemia in un certo modo, hanno fatto qualche lockdown, l'hanno fatto anche loro un pochino più leggero, chiuso, hanno aperto un pochino. Noi siamo stati molto, e devo dire che i risultati al momento non sono male, e si è visto anche poi dalle elezioni che non contavano niente, ma che in un certo senso hanno premiato in qualche modo chi ha gestito questa fase, perché anche quello conta poi a livello Ma tu che hai votato in Toscana? Che hai votato in Toscana tu? Io in Toscana? Ora ti devo dire che ho votato in Toscana, ma non mi sembra il caso, anche perché Gianni, il voto di un cantante non interessa a nessuno. Ma c'è Gianni, figuriamoci se ha votato Gianni. Ma sei contento, sei contento che la Toscana è rimasta rossa oppure non? Allora, io sono molto molto amico di Eugenio Gianni, lo conosco perché è un tifoso della Fiorentina, l'ho incontrato spesso allo stadio. La Ceccardi non la conoscevo, ma ho diciamo un rapporto di amicizia anche con Matteo, con Salvini. Dunque, sono un anarchico, attenzione, per chi voto io non lo dico, magari non sono andato neanche a votare, non ti dico neanche quello, capisci che va voglio bene dire? Senti, la questione Leali, tu stai grande fratello, adesso chiudiamo la questione russa, giusto? No, chiudiamola e affrontiamo la questione Leali. Allora io voglio capire da te, che sei uno spirito libero. No, ma scusa, fammi finire di dire una cosa. Andate a vedere per cortesia il video su YouTube. Va bene. Ditemi, italiani, questa è la versione russa italiana, quindi capirete la metà del testo. Poi uscirà la versione totalmente italiana, cantata sempre in due con il cantante russo, che non censureremo noi, non ti preoccupare. Ho costretto a cantare in italiano la sua parte. Non censureremo. E poi ditemi se questa canzone meritava la censura. Va bene. Garantisco che non è uno scoop, lo voglio sottolineare, pubblicitario, mi è arrivata la doccia fredda proprio ieri. Io voglio dire una cosa, perché hanno messo in croce, siamo nel campo dei giochi, per carità, e reality, quello che ti pare, perché hanno messo in croce il povero Fausto Leali per una frase una frase scontata, una parola negri che si usa, lui utilizza. Non l'avrebbe detta, Pupo non l'avrebbe usata. Ma no, ma la utilizza anche la parola negri. Hanno fatto bene, male, spiegami. Scusa, allora, qui c'è bisogno che io ho preso le difese di Fausto Leali nella maniera che qualcuno ha visto quando è uscito, perché io non lo avrei squalificato, ma non perché non andava squalificato. Attento, perché c'è una cosa che non sa nessuno, vedi che la tua trasmissione poi diventa anche proprio il luogo ideale, il salotto giusto, adesso non sarebbe tanto d'accordo. Non è un salotto, è un gabinetto, non è un salotto. Comunque, vabbè, allora che è successo? Qual è il... Per dare anche delle piccole chicche. Allora, sì. Fausto Leali secondo me è stato lui magari un po' anche discriminato, perché gli è stato detto mille volte ignorante e la parola ignorante si può usare per tutti. Anch'io sono un grandissimo ignorante, anche la però mia mamma è peggio ignorante di negro, anche gli anziani che vanno a votare, se senti parlare un anziano, un vecchio, delle persone di colore, o li senti parlare degli omosessuali, senti delle cose allucinanti, e quegli ignoranti poi vanno a votare e danno il voto a quelli che questa gente qua li mandano poi al patibolo e li inquisiscono. Allora, l'ignoranza a volte fa comodo, a volte non fa comodo, quindi dare dell'ignorante a qualcuno è assolutamente sbagliato, discriminante, anche perché se ognuno dovesse parlare delle cose di cui conosce il senso o ne conosce il significato, l'Italia sarebbe un paese in silenzio. Ho capito, anche la tua trasmissione credo sarebbe proprio messa male. Cancellata. Detto questo, la frase che ha detto sul Duce, secondo te, è giusto o no? Anche tu la diresti una cosa del genere? Anche tu, allora, no, io ho una caratteristica, io so muovermi nei meandri insidiosi, pericolosi del political correct, del nuovo linguaggio, perché faccio comunicazione, perché faccio la televisione. Io non l'avrei detto semplicemente per questo, non perché l'avrei detto perché è sbagliato o perché è assolutamente, perché non lo dico perché firmo, attenzione, qui vi dico la chiave, perché firmo degli accordi con le aziende dove certe cose non si devono dire. Quindi Fausto Leali ha firmato un accordo con Mediaset e ti devo dire, guarda, devo fare un elogio a questa azienda che con la quale sono tornato a lavorare. Mediaset è veramente, allora, ha firmato un accordo? Un'azienda molto seria, un'azienda che rispetta i patti, una famiglia, firma un accordo dove c'è un comportamento etico, dove alcuni argomenti non si dovrebbero neanche affrontare e alcune parole non si possono dire. Ora non c'è scritto che non si può dire negro o non si può dire Mussolini o non si può dire fascista, ma c'è scritto che non si può ledere diciamo quello che è il senso comune, il sentiment di persone che potrebbero offendersi. Ma è una stronzata, E questo, se Mediaset non avesse squalificato Fausto Leali, probabilmente avrebbe avuto delle conseguenze poi anche fastidiose sotto il profilo legale e comportamentale, che vengono da tutte quelle associazioni che sono lì con il fucile puntato, che in qualche modo poi te la fanno pagare. Ma sono stronzate, dai. Se avesse detto Froscio sarebbe stata la stessa cosa, dai. Ho capito, Giuseppe, ma però Fausto ha firmato un accordo. Va bene, d'accordo, ma uno l'accordo, allora, non è che prevede che non si può dire negro, che non si può dire che Duccio ha fatto. Non andava squalificato perché ha detto per ignoranza, perché secondo me è sbagliato, ma perché ha firmato un accordo e magari questo accordo non è stato rispettato, allora l'azienda ha il diritto di squalificare. Ma quello che abbia il diritto non c'è dubbio, ma che sia una cazzata, ragazzi, cioè, si dicono delle cose ben peggiori della parola negro, che ha utilizzato certamente non per offendere le persone di colore. E ha detto una cosa che dicono tutti, che il Duccio ha fatto delle cose buone. In fondo lo pensi pure tu, che il Duccio abbia fatto delle cose buone. Allora, ma l'informazione sommaria che il Duccio ha fatto delle cose buone e cattive è quella che arriva agli ignoranti come noi, e mi ci voglio mettere anch'io, perché sennò sembra che io sia chissà chi. Allora, a un certo momento, dove tu, Fausto Leali, ora lo dico con affetto perché io le voglio bene, sul serio, Fausto Leali guarda Mieli che fa la storia e sente dire, lo guarda lì mentre magari ha bevuto un goccino e mezzo assonnato, sente dire che il Duce ha incrementato di molto la comunicazione ferroviaria, allora, ha costruito le stazioni e poi ha anche fatto le leggi razziali non si rende conto del peso che ha una cosa, del peso che ha un'altra, e va a dire poi quello che dice, perché non è una cultura che viene dai mezzi che ti dà la scuola. Ma chi se ne frega, uno lo può dire tranquillamente, non è che devi avere il certificato di idoneità per dire cose di questo tipo. Ha detto una cosa contestabile, naturalmente, punto e basta. Non è che uno viene squalificato perché dice questa cosa e dice la parola negro, è una follia. Allora, questa però sul Duce era stata tollerata, era stata passata. Fermo un attimo, fermo là, aspetta che ti riprendo, fermo là. La Zanzara. Ciao Giuseppe, sono Michele, ho 30 anni, ho conseguito la laurea in economia con lode a 23 anni, abilitato alla professione di dottore commercialista a 24. Nella vita ho avuto due storie importanti e non ho mai fatto sesso, ma sempre e solo amore. E per favore, dai il mio numero ad Anna, vorrei dimostrarle che ci sono ancora persone che come lei hanno dei valori e che cercano altro al di là del sesso. E come diceva il grande Tiziano Terzani, c'è altro al di là della materia. C'è altro al di là della materia. Adesso voglio farti ascoltare, caro David, un signore che è un professore all'Università di Roma 3, che si chiama Edoardo Lombardi Vallauri. Finalmente un grande intellettuale, molto bello. Non lo so se è un intellettuale, è uno che ha scritto un libro di recente per Einaudi sul sesso. Sì. Sul sesso. Sì. In cui c'è una tesi fondamentale: l'uomo non è monogamo. Tesi esposta molto chiaramente, lo sentirai parlare in maniera così anche un dice po' barocca. L'uomo non è monogamo. Ma non è non lo dice un ascoltatore. Giuseppe Cruciani. No, è lui. Si chiama Vallauri. Io nemmeno lo conoscevo, però me l'ha segnalato oggi Poli. Senti. poi cosa assolutamente macroscopica, le persone si mettono insieme. Senti. Sul patto, sull'accordo di non avere intercorsi con terzi, intercorsi, con altre persone. No, intercorsi, questa cosa, rapporti sessuali, che intercorsi. Si possa stare insieme e amarsi. Bene. Soltanto limitando il sesso a un'unica persona, è una cosa che ha un portato culturale, non c'è niente di necessario. La nostra specie, l'uomo, non è una specie monogama, non è una specie istintivamente monogama, quindi rendersi monogami culturalmente significa forzare la nostra natura. Questo è un perfetto esponente del partito di Pupo, del partito di Pupo e Cruciani. Ci sono diversi elementi che concorrono a far diventare questa persona una persona per bene. Intanto non usa parolacce e poi la R moscia. Cioè lui in pochi minuti ha tracciato quella che è una teoria. Tu avresti parlato di no, cazzi, io ho sempre detto che la monogamia è una patologia. Lui con quella e ho sempre R detto che la monogamia non è dell'animo umano, non è dell'uomo. Com'è che l'ha definiti? Sì, perché siamo dalla RAI e non si ma può dire li rapporti definiti? Sessuali, intercorsi, sì, gli intercorsi. Usalo anche tu. Il 75% degli esseri umani tradisce, secondo me è anche poco come percentuale. In una specie in cui il 75% degli individui è oggettivamente poligamo, cioè oggettivamente tradisce. Lo vedi? E poi ci sono anche statistiche, diciamo. Sì, sono statistiche del tutto, anzi 78, ma sono italiane? Sono statistiche sia americane che italiane, non c'è dubbio su questo. E alcuni non tradiscono. Quella è una specie poligama. Le specie monogame sono quelle in cui l'istinto fa sì che uno non desideri avere più partner. Insomma, non è un mito questo o no? No, cioè... sono d'accordo, le cose giuste, ma la monogamia è un'alienazione più che altro cattolica, religiosa, insomma. Ecco. Sì, assolutamente, c'è cioè una deviazione, no, diciamo, no, una patologia. Con l'istinto, ha ragione perfettamente, l'istinto. Io l'ho capito da quando ho cominciato a sentire i primi impulsi sessuali che non sarei mai stato monogamo. Vabbè, uno subito. Ci prova, no? Uno prova, poi dopo. Ma, sì, ma poi uno deve fare quello che poi ha voglia di fare. Assolutamente. Sì, però senza mancare di rispetto alle persone che ti sono vicino. Ma che cazzo per dici? Carità, Senti qua. Il partner è difficile accettare l'idea. È quello che dico io. Si paga un prezzo perché si è stipulato che andare con altri sia un'offesa al partner. Appena andare con altri non è più un'offesa al partner, perché le persone si mettono insieme su una base naturale, non c'è più offesa. E come mai non funziona quel modello? Perché da 4.000 anni siamo stati influenzati a considerare questo un dramma. Da chi? Essenzialmente dalla religione. E questo è il punto, ragazzi, ecco, è questo il punto. E ecco. Siamo lì, siamo stati condizionati dalla religione al fatto che bisogna essere monogami, che la monogamia è un valore e invece però andare con altri è un disvalore. Questo è il punto fondamentale. Però devo dire che la religione ci ha insegnato anche delle cose buone. Cioè, ci ha solamente insegnato cose cattive. Io non sono credente, ma però sono in qualche modo guardo il cielo, penso a mio padre, penso alle energie che mi circonda, ma adesso che parlo con te e con Davide, io sento attraverso il telefono, sento che la vostra energia non è ostile nei miei confronti. Non capisci? È ostile, no, questo no, è vero. Aspetta, fermo, senti questo. Siamo degli animali e per molte altre cose, per esempio mi va di mangiare un croissant, lo mangio, e soltanto sul sesso l'istinto naturale viene considerato sbagliato, è un crampo mentale che ci portiamo dietro da millenni. Vabbè, questo è il punto, capito? Cioè, il punto con la fine. Crampo mentale, ma sì, bellissimo. Ma se uno vuole mangiare un croissant, lo mangio. Il sesso non è lo stesso, viene considerato diverso. Io lo voglio considerare come mangiare un croissant. Ciao Enzo, ti abbraccio, a presto. Ciao. Federico da Torino, vai Federico, dimmi. Sì, buonasera, tralascio intanto di commentare la monogamia come un fatto cattolico, è un'idiozia veramente di dimensioni spropositate. Il problema senso, della scusa, monogamia e poligamia è che se uno mette le corna e non lo dice all'altro non ha le palle. Quindi siamo tutti poligami senza dire niente a nessuno. Allora, invece mi ci tengo molto. Ho sentito prima che parlavate di patologia di quelli che non scopano per anni. Sì, no, a perché me fa chiamano, piacere che chiamano. Abbiate la leggerezza di parlare di una cosa del genere, perché vuol dire che avete avuto il culo nel burro tutta la vita. No, credo, stai calmo. Stai tranquillo. Fermo un attimo. Allora, fermo un attimo. Tu sei, scusami, Domenico o Federico? Non ho capito. Tu Federico da Torino, 32. Allora, Federico da Milano, chi cazzo è? Federico da Milano? Allora, benissimo, sì. Federico da Milano. Allora, Federico, il punto fondamentale è un altro. Se uno non scopa da 15 anni è un problema, avrà dei problemi, a meno che non abbia dei problemi fisici, ci sono dei problemi psicologici, mentali, non è che ho detto che è un malato di mente che deve essere impiccato. Ma i problemi psicologici secondo te sono innati o possono essere dati dal mondo? So, ma se uno c'ha i debiti, i genitori suicidi e roba del genere, secondo te è divertente andare a cercare figa la sera? Ma cosa c'entra? Ma quelli sono casi estremi, no? Ma cosa c'entra? No, non sono casi estremi, per questo che voi siete due fighetti sul vostro trono di burro a permettervi di dire una troiata del genere. Ma questo è un cretino, ma questo qua è un imbecille, questo qua è un altro che non scopa da 10 anni, che ha dei problemi mentali pure lui sicuramente. Ed è per questo che ti puoi permetti di dire una cosa del genere, perché sai, la vita facile, tutto facile. Ma cosa poi vuol dire la vita facile? Ma certo, ma cosa c'entra la vita facile con lo scopare? Io conosco gente che c'ha una vita complicata che scoprono come ricci lo stesso. Ah, cosa certo, vuol dire? Dai, su, pagano, dire. Pagano. Ma no. Beh, no. Voglio vedere quali fiori portano via. Quali fiori portano via? Questo è straordinario. Però scusa un attimo, tu stai dicendo una cosa che affrontiamo con troppa leggerezza queste cose. Può darsi, sicuramente non approfondiamo qui. Non è una. Sì, no, purtroppo non si approfondisce molto da voi due, voglio dire. Allora perché cazzo ascolti? Perché chiami allora? Perché chiami? Scusa, perché era un diritto nei confronti degli ascoltatori. Ah, nei confronti di non farsi inquinare da idee del genere. Da quali idee? Quali sarebbero le idee? Non ho capito. La prima era la patologia. Sì, ma certo, se uno da 15 anni non tromba o da 20, come ci dice qualcuno, dai 20 ai 36, non mette l'uccello dentro una figa nemmeno per sbaglio. Amico mio, avrà un problema, una patologia o no? Avrà un problema. Perché deve essere una patologia? Perché deve essere una cosa sua e non una cosa normale, esterna? Ma perché certo, vuol dire che non siete in grado di immaginarvi quali possono essere le condizioni in cui uno poi non scopi per 15 anni senza pagare. Amico mio, ma 15 anni. Mi fa piacere che voi abbiate avuto una vita talmente tranquilla da potervi permettere di non riuscire tranquilla? Neanche a immaginare una cosa del genere. Scusami, perché ma vuol dire solo questo? Scusami, ma non ho capito una cosa. Tu invece, personalmente, come sei messo da questo punto di vista? Ecco, questo è già non più benissimo importante. Perché ho vissuto, per dire, una cosa abbastanza traumatica. Cioè? Tra i debiti di famiglia e i suicidi di mia madre, per mamma, degli anni non ho avuto rapporti sessuali. Quanti anni, scusa? 3. Tre anni, per vabbè, 3 anni. Beh, quindi non ragione. Siamo a 16, però vabbè, avendone tre avuti 3, mi riesce facile pensare come le cose possono anni, andare così anche male lì, da anche arrivare lì, tre, una tragedia, anche lì, poverino. Allora ma anche lì 3 cambiare anni, beh, tre insomma, anni, però tre, ha avuto delle ma, disgrazie. Ma ho capito, pazzesche. Uno ma a te ti divertirebbe andare a scopare quando cerchi di bloccare tua mamma che si butta dalla finestra tutta la settimana? Potrebbe essere, ti amico viene mio, Federico, potrebbe essere, sai che potrebbe essere invece una chiave quella? Cioè, ti posso dire, adesso per carità, se tu non hai avuto la voglia, mica devi essere obbligato, però nella tragedia che uno ha intorno, una possibilità. Beh, ma per lui è difficile. Uno si però può anche chi è che sta facendo? No, sta premendo niente. Il clacson. Non lo so. Ma sei tu che sei in macchina? Dove cazzo sei? Però andando a giocare a calcio che non c'ho però tempo. Però posso dirti, Federico, uno nella tragedia magari cerca, no? Certo, cerca di sfogarsi in un certo modo. Tu non ce l'hai fatta, tu per 3 anni non hai trombato. Ma che te devo dire io? Cioè, ma non ti posso dire niente. No, il tuo caso è un po' diverso. Sto dicendo, se uno per il mio caso è un po' diverso adesso. Immagina quanti ce ne sono che possono essere diversi, guarda comunque, un po'. Mi devo ricredere, 3 anni è troppo, anche tu se hai qualche problema, anche tu se per 3 anni, nonostante i tuoi problemi esterni, il fatto che tu non abbia scopato per 3 anni, amico mio, c'è un problema che va al di là dei tuoi problemi, al di là della questione di tua madre, al di là della questione. Mi fa piacere che tu possa pensarlo in questo modo, sì, e leggerti in questa maniera al di sopra di qualsiasi cosa. Mi auguro di non dover mai vivere un giorno come me. Ma perché non ho capito? Tu non hai mai avuto la voglia in questi 3 anni in cui sei andato in bianco? Triste, è difficile interfacciarsi con le persone, mettere in piedi una relazione monogama, seria, non come lì l'apologamia, tradimenti e la buffonata che parlavate prima. Non si può trombare per trombare, non ho capito. Non si può trombare solo per. È difficile convincere una con tutta una serie di restrizioni senza pagare. Ma che dice difficile convincere qualcuno? Ma questo è pazzo totale. Ma che roba è? Ma in che mondo vivi? Devo dire anche che forse miro a delle donne che hanno qualcosina in più di quelle che cercate voi, ecco, a questo punto. Ma quando uno vuole scopare, incrocia una che gli piace e se la scopa. Ma come si permette? che prima dava del patologico a un poveretto, chissà cosa gli è successo a questo che non scopa 16 anni, adesso come mi permetto io. Beh, ma certo. Dai, allora Federico, posso dirti una cosa? Se uno ha voglia, cioè, il problema è tuo, che non ti viene l'istinto di chiavarti qualcuna tanto per chiavartela. La scopata tanto per scopare è eccezionale, è una delle poche cose che abbiamo nella vita. Cioè uno quando scopa per scopare, semplicemente per il gusto di scopare, è una delle poche. Puoi darmi un esempio della tua vita di questa scopata animale che ti ha illuminato così tanto l'esistenza? Tante, per fortuna, tante. Ha punteggiato la mia animale. Esistenza. Sì, animali, animalesche, sì. Bomber. Trombate animalesche, sì, ma è normale, capita a tutti, non sono bomber io, è capitato a tutti. Se non è capitato a te, è un problema tuo. Se non ti capita, è un problema tuo, non è questione di essere bomber o non bomber. Se non ti capita la scopata animalesca, il problema è tuo. È tuo, allora, non la scopata animalesca può capitare nel momento in cui uno mente e va a predare una persona che è in grado di manipolare, che è più debole. E perché? Perché l'altra persona, la donna, non può avere la stessa voglia di due? Una donna non può avere le stesse certo voglie che può avere le stesse allora, voglie assolutamente però se tu vai cosa? Da una e gli dici guarda che c'è questo e quest'altro, ovviamente non ti metti in una condizione favorevole per arrivare all'obiettivo. Ma questo è pazzo, ragazzi, questo è pazzo. Fermi tutti. Chiedo scusa un momento, chiedo scusa, pubblicità. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta La Zanzara. Amico mio, buongiorno. Peppi, ma come fai a essere nappiano? Come fai a essere con Valentina Nappi? Giuseppe, la vergogna dell'Italia. Una costa crociere di cazzi si è presa e ha il coraggio di parlare. Se parli la signora Nappi, avessimo essere tutte fenocchie, tutte depravate che se ne vanno a chance, tutti froci che maneggiano pennolona. Lei vuole questo. La vergogna dell'Italia. Si prendesse i cazzi la signora Nappi e non rompesse i coglioni alla gente per bene. Se devo mettere sulla bilancia la signora Nappi e quella ragazza che ha chiamato l'altro giorno che ha 30 anni è vergine, tutta la vita sto con la ragazza vergine, tutta la vita, almeno è seria, sistemata, ce ne fossero di ragazze come lei. La signora Nappi è una povera suca minchia. Devo dire a Valentina Nappi, invece di sparare cazzate, mettiti i pennoloni a mucca, Valentina Nappi, infilati i pennoloni a mucca e parla a chi picca. Tutta pafrociaggine, sì, chi sa la verità? Ti piacciono i froci, non ti piacciono i mascoli, ti piacciono i fanocchi. La Zanzara, che meraviglia. L'unica trasmissione dell'etere dove i conduttori si insultano a vicenda. Ma anche gli ascoltatori possono chiamare, sì, insultare i conduttori e i conduttori a loro volta insultare male. E cosa c'è di bello? Gli ascoltatori insulti una a vicenda. Che meraviglia. È una Siamo tragedia. Quale top? Vi leggo solo questo, lo chiamano Torino. La notizia secca, così, senza discussioni, senza polemiche, lo chiamano Torino. È cresciuto e ha vissuto la sua educazione criminale nei vicoli del rione Sanità. Il suo indirizzo di residenza lo colloca a pochi metri di distanza dalla casa dove nacque Totò. Ma la sua fama di bandito specializzato in furti, scippe e rapine d'orologi di lusso arriva ben lontano da Napoli. E soprattutto Milano è diventata da anni la città in cui più spesso viene in trasferta. Comunque quella dove è stato spesso arrestato, i famosi trasfertisti. E dove l'altro pomeriggio ha rischiato di morire cadendo da uno scooter dopo un furto inseguito da un ragazzo, 26 anni, che guidava una Porsche e al quale avevano appena rapinato un Patek Philippe da 38.000 euro. Porca miseria. Erano circa le 18.30 in Piazza della Repubblica, Milano, pioveva molto, la dinamica dei fatti ricostruita nei rilievi della polizia locale intervenute per l'incidente mentre i poliziotti della squadra mobile stavano lavorando, eccetera eccetera. È andata così. Un motorino affianca la Porsche, gli urta lo specchietto, proprio al centro di Piazza della Repubblica, all'altezza della piccola via Cartesio. Il guidatore abbassa il finestrino per sistemare il retrovisore. È il momento sul quale i trasfertisti napoletani, rapinatori di orologi, hanno una tecnica di attacco immediato e fulmineo, quasi infallibile. Infatti, accanto alla Porsche piomba un secondo scooter e il passeggero strappa l'orologio dal polso dell'automobilista. I due scappano. A quel punto però il ragazzo a bordo della Porsche distinto accelera e tallona il motorino per poche decine di metri. Poco dopo lo urta. alla grande. Nei prossimi giorni, beh, alla grandissima. Beh, alla tu che avresti fatto? Non avresti cercato di riprendere il tuo orologio, certo, da 36.000 euro? Quello, certo, ha fatto molto bene. Lo scooter adesso finisce adesso sull'asfalto, il complice scappa a piedi. Torino invece resta a terra svenuto e l'ambulanza lo porta al policlinico, eccetera, eccetera. Amici miei, non dico nulla, non aggiungo nulla a questa vicenda, a questa storia. Non aggiungo niente. Ma che cosa vorresti aggiungere? Perché dicendo così, non tu voglio aggiungere è niente. È chiaro invece quello che vuoi aggiungere. Non voglio aggiungere, non dico niente. Così, un trasfertista pregiudicato napoletano, ecco, specializzato in rapine, detto, ha preso non un Rolex, ma non lo dico, ma un Patek Philippe al centro a Milano da 38.000 euro. Non era uno di Quarto Giaro, bensì un trasfertista pregiudicato. Non voglio ma dire niente, detto, intanto ma l'ho detto. Ma è da mezz'ora che lo dici, non voglio dire fermi niente. Tutti, voglio chiamare il re dei negazionisti, uno dei protagonisti di tutte le battaglie negazioniste. Un medico, credo, un medico legale, un pugliese, si chiama Pasquale Mario Bacco. Chiamiamolo, vi prego, chiamiamolo. Mia. No. Pronto? Pronto? Chi è? Il dottor Bacco? Sì, sono io. Eccoci qui, sono Cruciani, come andiamo? Ah, tutto bene, Cruciani, tutto a posto. Beh, caro Parenzo, tu te lo ricorderai, il dottor Bacco, che è purtroppo un medico sì legale, o per Bacco, sì. Cosa dice, cosa sostiene cosa sui vaccini? Dice? Che sono un regalo alle lobby farmaceutiche, cioè sì, il vaccino, certo, per il coronavirus. Assolutamente sì. Un regalo sì assoluto, dice sì anche che è una truffa, sostanzialmente, giusto, sì, Pasquale? Assolutamente sì, una truffa, mega truffa. Acqua di fogna. Sì. Eccetera, eccetera. Che vuol dire acqua di fogna? Scusa, non ti fidi? Acqua di fogna perché dentro non sappiamo cosa ci mettono. Perché è un vaccino completamente inventato, l'ennesimo regalo. Ma è una tangente pagata a queste case farmaceutiche che ormai comandano tutto in Italia. Pazzesco. Ma in tutto il mondo si fa il vaccino contro l'influenza. In tutto il mondo è un vaccino testato ma dagli organismi internazionali. Sei un cretino, sei una fabbrica di fake news. Assolutamente. I vaccini sono il più grande regalo che l'umanità fa. Io me lo faccio il vaccino. Che gestiscono tutto. Io me lo faccio. Ha degli effetti anche abbastanza sbagliati. Il vaccino è qualcosa di assolutamente sbagliato, soprattutto tu sei quest'anno, sbagliato. A maggior ragione quest'anno, perché con la presenza comunque di questo SARS-CoV-2 andrà a rendere ancora più instabile il sistema immunitario. È il contrario. Anzi, noi dovremmo fare un appello assoluto a tutta la popolazione a non fare quest'anno soprattutto il vaccino. Ma tu sei un criminale, vero? A Bergamo e Brescia noi sappiamo con certezza assoluta che c'è stato un'incidenza così elevata, assoluta, anche perché erano le zone dove si è fatto maggiormente il vaccino. Addirittura. Ma perché non lo diciamo una volta per tutte che diciamo le case farmaceutiche, ma che balla in è Italia comandano, determinano le scelte? Andate a vedere anche sul sito del Ministero, ma è possibile che le case farmaceutiche vengano pagate per fare i tamponi, per vedere che virus c'è dopo un mese, e dopo un mese ci vanno a presentare il vaccino già pronto? Ma perché il tampone è una truffa? Il tampone è una truffa totale, ma non è possibile che all'interno di questi tamponi forse questo virus già c'è? Propalatore di balle. Allora perché, parente, propalatore di balle. Poco. Tu sei contrario a ogni vaccino, non ho capito. Io non sono un Novak fino assoluto. Ci sono alcuni vaccini che oggettivamente, come faccio a essere in disaccordo con la poliomielite? Però il 90% dei vaccini non servono a niente. Non servono a niente. Pensa che in anni passati c'erano dei criminali che su quello della poliomielite dicevano la stessa cosa tua. Allora, o quello del vaiolo, ad esempio. O del vaiolo. Governatori. Parenzo, perché non dici. Quello del vaiolo, l'hai fatto il vaccino sul vaiolo? L'hai fatto il vaccino? Quello sul vaiolo l'hai fatto o no? Che cosa non sono affari tuoi? Cosa ne pensi? No, sì che sono affari nostri. Di un governatore di una regione che va su un palco e dice vi vaccinate tutti, vaccinazione ottimo al 100% per fare una diagnosi differenziale. Un eroe. Il criminale è lui o chi fa fa una battaglia mettendoci la faccia su un criminale, uno che dice, che dice che le persone vanno vaccinate, anche Parenzo, anche per Parenzo. Un criminale della medicina. C'è un nuovo ordine mondiale che vuole mantenerci tutti quanti sotto scacco attraverso una specie di dittatura sanitaria, come dice qualcuno, sì o no? Ma in questo momento in Italia la dittatura sanitaria ci sta, è inutile negarlo. Io non sono un complottista, però man mano che passano i giorni, cosa volete che oggi tutto dipende da loro? Ma voi sapete come avvengono i TSO? Noi abbiamo un numero di TSO perché non esce sui giornali, ma ci tengono 7 giorni chiusi. I bambini che cosa stanno facendo? Ma che c'entra il TSO però? Cosa c'entra il TSO? Il TSO è una cosa vergognosa. Ma il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio? C'è gente che non ha la mascherina. No, ma nessuno viene messo. Ma cosa dice? Noi trattiamo il TSO. No, no, no, qua ci sono dei trattamenti sanitari obbligatori a persone che non accettano di mettersi la mascherina nei supermercati. Certo. Siamo diventati pazzi. Ma ci tengono chiusi per 7 giorni con lo Xanax. Ma voi non le dite le verità? Tengono con lo Xanax perché sei matto? A te ti tengono chiuso perché sei matto, ma non per solo per il Covid. Ma chi è che tengono chiusi con lo Xanax? Oggi a persone che reagiscono perché non hanno la mascherina. Ma tu non la metti mai? Come scusa, io reagisco sempre, io non la metto mai la mascherina. Mai. Allora io la metto soltanto quando sono in contatto con persone malate o persone molto anziane. Io dico soltanto questo, che noi oggi siamo in una piena dittatura sanitaria gestita sicuramente dalle lobby farmaceutiche. Su questo non ci piove, ma perché la vostra vita oggi com'è? Oggi voi rialzate e ragionate su sul Covid, andate a dormire e ragionate sul Covid, ma tanto tranquillo. No, capito, ma perché esiste il Covid o non esiste? Esiste o non esiste sto Covid? Oppure è stato io ho sempre detto, non abbiamo mai detto che non esiste il Covid. Il Covid esiste, ma non è il virus che ci raccontano questa gente. I morti, ma per carità di Dio, che non è morto nessuno. 35.000 persone. Ma voi 35.000 persone, 35.000. Allora Parenzo risponde. Chiedilo a Berlusconi. Tutti vogliono un personaggio di 83 anni con tutte le forme di cancro che ha avuto, con perché tutte l'hanno le preso per tempo. L'ha detto giorni. Lui stesso. Allora l'hanno preso per tempo. Allora a differenza degli altri, l'hanno preso per tempo. Ignorante. Avevamo ragione noi. Ma noi chi poi? Quale strage di Stato? Il governo ce l'ha sulla coscienza. Ma tu sei fuori di testa ormai. Avevamo ragione noi allora. Ma noi chi? Ma noi c'è, noi, ma c'è che, o non voi, c'è? C'è o non c'è allora? Noi dell'eretico, noi di tutte quelle persone che hanno avuto il coraggio di mettersi questo la è uno spostato, in questo schifo che non si può sentire. Questa è la verità. Noi sei siamo uno una spostato. Dittatura sanitaria. Berlusconi perché non è morto? Perché è stato lo ha detto anche Zangrillo, perché se fosse accaduto a novembre, dicembre, aprile, probabilmente sarebbe morto, lo ha detto Zangrillo. No, Zangrillo, a parte che posso dire, ma perché stanno chiudendo anche in altri posti? Zangrillo si dovrebbe vergognare di una cosa. Pure lui, a Piazza pure lui. Pulita ha detto, ci ha definito, a noi che stavamo a Roma il 5. Ah, tu stavi a Roma? Sì. Allora lui dovrebbe ma questo è poco, aspetta. Malati psichici. Però Zangrillo si deve ricordare che, a parte che lui è veramente un buffone, se io sono un malato psichiatrico lui è un buffone, dovrebbe ricordare quest'uomo che è legato sicuramente al potere, visto che è legato a Berlusconi, che in quella piazza c'erano tantissimi colleghi e c'erano tantissime persone per bene, e certamente i malati psichiatrici non devono essere presi a punto di riferimento negativo. Scusami un attimo, ma perché stanno richiudendo? Scusi, sì, ho capito. Chiamate Zangrillo e fatelo scusare. Ma perché in altri paesi adesso stanno pensando di chiudere? Cioè, voi cosiddetti negazionisti, che atteggiamento avete nei confronti di questi paesi che stanno facendo altre chiusure? L'Inghilterra, la Francia, eccetera, stanno pensando anche se non anche totali. Anche gli Stati Uniti, forse. No, è una follia chiudere. È una follia. Questo virus, in questo momento, che è così debole, deve circolare. Noi ci dobbiamo infettare. Come ci dobbiamo infettare? Ci dobbiamo infettare e immunizzarci. Ma voi come volete sopravvivere con questo virus 2-3 anni? Fatemi capire. Questo come è vero, però, questo di chiudere tu dici dobbiamo mese, infettarci. Ma tutto, chiudiamo tutto allora. Tu te lo sei preso o no? Te lo sei preso o no sto virus? No, purtroppo non l'ho preso. Come purtroppo? Purtroppo, cioè, purtroppo perché vai, non sono immunizzato. Ma vai in mezzo a qualcuno, vai fatti infettare io apposta. Io sono stato in piazza in 10.000 persone, Cruciani. Quando ho detto acqua di fogna, siamo stati senza mascherine, con 10.000 persone non me lo sono preso. Anche questo vi dovreste chiedere. Io però però continua a chiedere a Parenzo per quale motivo Berlusconi dopo 5 giorni esce dall'ospedale non dimagrito di un etto. Se questo virus è così pericoloso, ma può un uomo come lui, che ha avuto cancro, ha avuto cardiopatie, dire ho passato la peggiore esperienza della mia vita? Mamma mia. Ma anche Berlusconi a questo punto devo pensare che si inventa tutto. Allora io voglio dire questo, ma tu sei il vaccino pazzo quest'anno ormai, pazzo. Non va fatto. Mi dispiace colpire Parenzo, non va fatto, è roba da criminale. Quello che stai dicendo è criminale. Ciao Pasquale. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ciao Crux, sono in procinto di entrare nell'appartamento di un trans contattato su internet. È la mia prima volta e ti penso. E all'indignazione del biscottino Parenzo, vorrei dire che io ho sempre lavorato. Ho sempre lavorato. Ciao grandi. Amore. Crucio, sto guardando la mia ragazza. Chi è? Effettivamente, mi chiede chi è Crucio. Effettivamente ha la radice del naso spostata verso sinistra. Ottimo, direi. Pezzo di merda, te Parenzo Cruciani, dovete morire male. Pezzi di merda, bastardi. In culo galline, bastardi. Bastardi, depravati. Non ha preso le pillole. Beh, c'è un problema. Non ci stanno facendo salire a noi e altre persone perché non abbiamo il tampone. Scusate, se io ho fatto un serologico, quello pungidito? L'ha fatto, no, serve il test, il tampone rinofaringeo. Signora, il tampone rinofaringeo, altrimenti non ti fanno salire. Ma scusi, ma si può parlare con un caposcalo, qualcuno? Perché questa è una violazione dei diritti costituzionali, 32 e 16. Posso parlare con qualcuno, per favore? Alle sue spalle c'è la nostra responsabile. No, voglio parlare con un caposcalo. È la responsabile, signora. Io devo partire, ho pagato un biglietto, ho un titolo di viaggio. Io ho il biglietto per questo volo, quindi ho comprato un biglietto. E per quale motivo io sono obbligata a fare un trattamento sanitario e che mi limita nella mia libertà costituzionale numero 32 e 16, quindi libera circolazione. Voglio sapere qual è la legge. Ti aspetto, no, no. Sta registrato. Quindi non voglio rispondere. No, me lo devi dare, altrimenti io vi denuncio. Legge del tampone, grazie. Io vi denuncio, denuncio per la violazione dei miei diritti costituzionali. Okay, c'è il Ministero della Salute. Vi denuncio al Ministero della Salute, mi denuncio ai carabinieri, alla procura, altro che il Ministero della Salute, scusatemi. Ma non ho capito, gli volevano fare il tampone, le volevano questa è la fare Martani, il tampone. Lo diciamo per gli ascoltatori. Sì, certo. È la Martani, detta la squinternata. Ma la io non ho capito una cosa, uno perché deve subire un tampone. Come subire? Prima di salire sull'aereo. Ci sono delle regole, se viaggi fare un tampone, evidentemente. Ma che cazzo è? Ma ha fatto il sierologico, basta, Magelta, non hai la febbre, perché mi devo fare il tampone? Se gliel'hanno chiesto, evidentemente c'è una norma che lo prevede, ma che discorso è? Robin da Roma, vai Robin, vai. Allora, io adesso mi dirigo a Parenzo, che è un professionista. Dimmi, allora, senti Parenzo, se stai un attimo tranquillo, calmo e possiamo parlare. Ma Robin è un nome di battaglia o davvero ti chiami Robin? Certo, perché qual è il problema? Ma per carità, Robin. Ma Robin da Padova, ma qual è il problema? Dai, su. Pure Parenzo, insomma, è un cognome, insomma, che io può fare. Allora? Senti, allora, volevo dire... Parliamo senza dire discorsi tecnici, scientifici, medici, non mi interessa. Voglio parlare da singolo cittadino, poi il medico è un'altra cosa. Ne possiamo parlare tra medici. Ora, questo virus si scoprirà che è una gran buffonata, come sempre. Sì. Disse Robin da Padova. Perché... Sì, da Padova. Da Roma, tutto il mondo. Da Roma, che Padova. Tutto il mondo parla perché, del Covid, tutto il mondo, allora, è coinvolto. E guarda, e il per discorso te è una buffonata. Ci sono. A Joker! Mali mortacci de Pippo a Batman, ma che stai a dire? Vabbè, finito. Robin, perché dovrebbe essere una buffonata secondo te? Semplicemente perché innanzitutto sono grandissime cazzate. Allora, il virus non è cronometro, non è che va a cronometro, da una certa ora in poi ti metti la mascherina, non te lo prendi. Ma chi ha detto da una certa ora? Prima puntata, seconda puntata. Ma chi l'ha detto da una certa ora? Vabbè, poi vai avanti. Oh, discoteche chiuse mi sta bene, ma che metti la mascherina obbligatoria, c'è scritto carissimo, dalle 18. Ma chi lo dice? Ma che stai dicendo? Ma che dici? Perché ci sono assembramenti quando fai gli aperitivi, lo devi mettere. Ma ragazzi, ma è pure una roba vecchia questa, di che vuoi parlare, Robby? Non ho capito, di che vuoi parlare? Voglio parlare del fatto che quando una persona muore con il Covid, così come ti racconta, 35 persone, non infetta più perché non respira, carina, e manco sputa. Allora mi spieghi per quale motivo l'hanno dovuto incenerire tutti la quanti? La storia ancora, ciao, la storia, però intanto carissimi, ciao Core. Edoardo da Firenze, sai che voglio chiamare senti Etro? La musica, voglio la musica, provare la a chiamare Etro, mitologico, Raimondo Etro, sì. Vai Edoardo, dimmi, non c'è. Alessandro da Bolzano, no, Federico da Torino, vai, Federico. Dimmi. Ero da Roma, però va bene uguale. No, c'è anche Cruciano. Un Federico da Torino, non ti preoccupare. Federico da Torino, ciao, dimmi. Ciao Cruciano, pure un quarto che aspetta, non mi pare vero. Dimmi. Guarda, Federico. Allora, senti un po'. Io qui volevo parlarti di una sera che è scappata fuori questa cosa. Sono tornato dopo una serata di aver bevuto e mi sono addormentato. A un certo punto la mia ragazza mi vede che mi trovo al chiaro di luna con la finestra aperta, rivolto verso il mio comò, col culo all'aria. E allora lì questo sembrava una sorta di sogno, perché quando mi sono svegliato non ricordavo un cazzo. E a un certo punto il giorno dopo vado a prendere il mio computer con sopra il computer della mia ragazza e i suoi vestiti e sentiamo che è bagnato. Allora in quel caso cominciava a toccare sopra le vivono la mansarda, quindi il tetto, tutte queste varie cose così sotto il comò, e vediamo che non è bagnato, quindi diciamo cazzo, è entrato un animale. Dunque? E dunque ho pisciato sul comodo ubriaco. Che ti devo dire? Allora, dimmi, secondo me è normale, perché tipico di chi chiama questa trasmissione. Non ho capito, tipico. Federico, a me che cazzo me ne frega se tu hai pisciato sul tuo comodino di notte perché eri ubriaco. Spiegami, qual è il punto fondamentale? Cioè, qual è il punto? Ma che cazzo me ne frega a me se tu hai pisciato sul tuo comodino ubriaco di notte? Ma che cosa cazzo me ne frega, imbecille? Grazie. Alessandro da Bolzano, povero cretino. Alessandro, dimmi. Pronto? Dimmi Alessandro, dimmi. Sì, ciao ragazzi, voglio solo fare notare una cosa ritornando all'argomento di Concita De Gregorio, no? Sì. Perché avevo visto ieri la trasmissione di martedì, no? Sì. E personalmente ho verificato che all'inizio non è stato Sallusti il primo a chiamare Concita per nome. Sì. Perché all'inizio Giovanni Floris, quando elencava i nomi dei protagonisti, aveva chiamato Concita De Gregorio per nome, mentre tutti gli altri non lo so, Alessandro, so solo che è una cretinata, una buffonata enorme questa roba qua. Cioè, lei che si rivolge a Sallusti dicendo no, non mi chiamare, perché chiami me per nome e gli altri con nome e cognome o per cognome, è una cretinata. Lo ha accusato sostanzialmente di sessismo, di svalutarla o di dire non mi chiamare così. Sì, c'è stato un misunderstanding. Ma che misunderstanding? Ma è stata una accusa ingiusta. Vai a cagare. Ma Federico da Roma, dai, Federico da Roma. Eccolo, ciao. Dimmi. A tutti. Allora volevo dire che non serve più fare i tamponi, che tanto adesso basta che andiamo tutti all'ASL a farci il vaccino anti-influenzale, così Parenzo è contento e non lo dice. Bravo, bravo. Ma uno può anche dire, uno può pontificare. Perché non può pontificare? Tema, non ho capito, perché non può? Lo dicono i medici. Non ha titoli. No, non lo dicono i medici, non dicono che tutti quanti si devono fare il vaccino anti-influenzale. Crisanti, ma chi se ne frega chi lo dice o chi non lo dice? Crisanti ha detto più volte che auspica che ci sia una vaccinazione di massa. Benissimo. Io per esempio non mi sono mai fatto il vaccino anti-influenzale, non è che per questo sto male. Tutti gli altri sì, ma neanche io. Quest'anno, ma io col cazzo che lo faccio? È più utile. Ma io non lo voglio fare, ma saranno cazzi miei. Non cosa c'entra? Non può dare pareri. Ma chi te l'ha detto? Pareri. Ma che tu? Io ho intervistato Crisanti e siccome di Crisanti mi fido, ti dico che vanno fatti il vaccino anti-influenzale. Ma tu lo renderesti obbligatorio? Non ci sono controindicazioni. Ma tu lo renderesti obbligatorio? Certo, non ci sono controindicazioni. Ma allora facciamo così, da domani le ricette invece di farmele il medico me le fai tu, va bene? No, si chiama caro. Ma questo che c'entra, no, dai Federico, questo non c'entra niente, questo scemotto, non c'entra niente. Ma questo, questo non c'entra un cazzo, uno Nulla. Può avere un'opinione sentendo delle persone esperte. Lui cosa non può dare esatto. Opinioni perché non ha tito. Ma chi te l'ha detto che non ha tito? Adesso le puoi avere e invece tu che non ti fai il vaccino lo puoi dire, non ho capito. No, attenzione, ci sono ricerche scientifiche, ne hanno parlato anche al telegiornale. È la stessa cosa che dice Parenzo. Il vaccino, ma cita la fonte, è predisposto a prendere le malattie e senti ragazzata, ma vai a cagare. E dove l'hai sentito questo? Federico lo può fare, lui no. Ah, dai, sì. chiamiamo Etro. Pronto? Pronto? Sì. Amico mio, come stai? Oh. Che cazzo fa? Butta giù sto coglione. Aspetta, aspetta. Pronto? Ma che c'hai contro di noi? Spiega. Ma perché chiudi, scusa? Perché chiudi? Perché chiudi? Sono Parenzo. Parenzo! Ah, ciao Parenza, che dici? Parenzo, come ti permetti? Parenzo intanto, ancora con sta storia. No, no, Parenza. Parenza, anche Parenza va bene. Sei una finocchia. Ma senti, perché devi offendere in questo modo? No, no, no, io invece io trovo straordinario tutto questo. Cecco, scusami, ti posso chiamare Cecco? Chiamami come ti pare. No, ma Cecco Angiolieri è stupenda questa cosa qua. Ho molto apprezzato la tua difesa. Etra, Etra la chiamala. Tua, ma se la chiami Etra va bene. La tua difesa di Fausto Leali, stupendo. Mamma mia. Stupendo, stupendo. Un ex brigatista che difende un fascista. Dimmi. Vi dico una cosa. Se volete invitarmi a pranzo a cena. No, alla radio. Discutiamo alla radio. Io ti pago pranzo e cena quando vuoi. Quando vuoi. Ma per carità. Se volete invitarmi a pranzo a cena, vengo volentieri perché siete, anche se siete due checche, però siete simpatiche. Sì. Ma come però ti permetti? Per il resto. Ma per il resto ci divertiamo. No, noi io... appunto, ma divertiamoci in privato. Ma no, in pubblico divertiamoci. Tanto che cazzo ti frega a te, mica hai niente da perdere. No, no, hai detto... appunto, ma quello sarà un problema mio. Comunque senti, guarda, se mi vuoi chiamare, no, tra l'altro, dato che mi chiami sempre col numero anonimo. Ma vuoi, cioè, no, ma il numero anonimo, perché qui parte il numero anonimo. Ma no, vuoi dei soldi? No, vuoi dei soldi? Il numero anonimo lo usano i maniaci sessuali. Ma vuoi dei soldi? Io non sono un maniaco sessuale, anzi, lo potrei anche essere, cioè sono un sessuomane, ecco, diverso. Comunque, appunto, allora, dato che mi chiami sempre con numero anonimo con i manici sessuali, se vuoi mi chiami, prendiamo un appuntamento, ci andiamo a mangiare una cosa, ovviamente pagate voi. No, però voi, voglio capire Fausto Leali. Fausto Leali. Ma quindi sono cazzi miei, va no, bene. Ma l'hai pubblicato, appunto, l'hai pubblicato. Cioè, allora, sono cazzi miei quello che pubblico. Ma non sei obbligato a leggerlo. No, vabbè, ma voglio dire, un saluto, si può utilizzare la parola negro o no, secondo te? Ciao. Cecco. Ciao, ciao. Cecco. Buona serata. Buona Etra. Etra. Etra. Ciao, ricchioncini. Ma ciao. Perché? Ciao. Ma perché? Ma perché? No. Ma perché, Frocette? Perché devi dire così? Perché? Che fate i soldi sulle disgrazie di chi chiama, come quelli che non trombano, li prendete per il culo, dite che hanno le patologie, che sono malati, manco fossero dei depravati, e poi depravati siete voi, che serve, capito? Che avete distrutto tutto, voi della tele, dei mass media, che rompete solo i coglioni, siete servi dell'elite, siete delle merde. Non sta bene, non sta bene, no, non sta no, bene. Si è aggravata. Maurizio da Milano, vai Maurizio, vai, vai Maurizio. Sì, ciao, allora, vabbè, questo cazzo incredibile. Allora, non so se avete notato quanti incazzano, sì, sulla questione ciulo o non ciulo. Si stanno incazzando e mi sembra probabilmente anche plausibile. Nel cioè? Senso, io dal 2001... ad oggi, che è il 2020, ho 50 anni, sì, mi è capitato di farlo 5 o 6 volte, due volte peraltro con un'altra donna che non era la mia, lei non lo sa, ora lo saprà. Lo dirò, lo saprà. Ora lo saprà, ascoltando la trasmissione. Prima, detto, ascolta che mi stanno... tu in 19 anni, in 19 anni l'hai fatto 3-4 volte. Sì, non la vedo come una né una patologia né una cosa. Mi masturbo più o meno regolarmente. Ma perché mi rendo conto di essere indietro di cottura in tante cose, però è capitato. Ma non ho capito perché, com'è possibile che tu in 19 anni l'hai fatto solo 3-4 volte? Quasi impossibile, una follia. Probabilmente 5 o 6, magari 7, non lo so, però sicuramente ti posso dire nel 2000, le ultime sono state nel novembre del 2013, 11 e 13 novembre del 2013, con una liutaia svizzera. Siamo a 7 anni, domani approfondiremo tutto, il perché e il per come da 7 anni, da 43 a 50 uno non scopa più. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.